sul finestra. Thank you. pubblicato tante cose, tutto è normale, tutto è normale, tutto è normale, tutto è normale, tutto è normale, tutto è normale, tutto è normale, normale, tutto è normale. Strano. Pare strano.